filo di carta, ma non sapeva ancora quando sarebbe caduto. Povero uomo, oramai è muto. Povero uomo, oramai perduto. Lui continuava a galleggiare nel suo mondo, ma piano piano cominciava ad affondare. Povero uomo, ora giace in fondo al mare. Povero uomo, che non riesce più a parlare. Non voglio più parlare, non ho fiato da sprecare. Per continuare ad amare mi dovrei consumare. E allora scivola via, scivola via, scivola nella follia. Scivola via, scivola via, scivola nella follia. Poteva ancora respirare piano piano, mentre il delirio lo prendeva per la mano. Ora è perduto e alla nebbia nei pensieri. Ora è perduto, non è più quello di ieri. Lui continuava a dire non c'è più niente da fare. Non voglio più sognare, non mi resta che dormire. E allora scivola via, scivola via, scivola nella follia. Scivola via, scivola via, scivola nella follia. Scivola, scivola, scivola, scivola.